Ragazzi, eccoci sempre noi su Region Air con Radio Onda Rossa, frequenza 87.9. Siamo noi gli studenti romani e oggi vi terremo compagnia per un'ora intera. Insieme a noi c'è il nostro amico Tiviane, il nostro amico che metterà la musica durante tutta l'ora e rimarrà con noi. E allora intanto ci scusiamo per il disagio, qualche problema tecnico e questo ritardo. E allora andiamo subito al tema del giorno. Oggi parliamo di arte, parliamo di cultura e dei tagli alla cultura che hanno messo in ginocchio e stanno mettendo in ginocchio il mondo dello spettacolo, il mondo del teatro e dei musei, dell'arte che arricchisce il nostro... In Italia i precari sono circa 4 milioni. 2 su 3 italiani non riescono ad arrivare a 1.300 euro al mese di stipendio. I giovani tra i 25 e i 34 anni vorrebbero andarsene via, circa il 51% di essi. La cultura. In Italia abbiamo 44 degli 890 luoghi simbolo per l'umanità, ma soltanto 37 milioni di turisti, anche se in Francia, che hanno più o meno la metà dei nostri monumenti, ne hanno circa 75 milioni. That I have all. Contestazioni e mobilitazioni sono state realizzate in tutta Italia, davanti all'Opera di Roma, alla Scala di Milano, al San Carlo di Napoli. I protagonisti sono stati gli studenti, artisti e precari del mondo dello spettacolo, che hanno espresso la propria rabbia contro la riforma Gelmini e Italia alla cultura. Abbiamo per le nostre solite corrispondenze Francesco, questo ragazzo del Comitato 3, che è il coordinamento Movimento Tutti a Casa, è al telefono con noi. Ciao Francesco. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Senti, allora noi avevamo qualche piccola domanda da farti, per esempio se potevi dirci qualcosa in generale sulla triste situazione culturale italiana. Ma hai già detto la parola giusta, triste, nel senso che la situazione culturale italiana è veramente ormai, secondo me, ai minimi storici, in generale sia sotto il punto di vista dell'istruzione, della ricerca e dello spettacolo e di qualsiasi forma di cultura. Evidentemente noi riteniamo sia una questione di scelte politiche piuttosto che di mancanza di risorse, come qualcuno paventa ogni tanto, perché di fatto abbiamo già visto e dimostrato, prendendo fonti direttamente dai ministeri, cioè della cultura e del tesoro, che in realtà con la cultura lo Stato ci guadagna. Certo, quindi, certo. Questa è dimostrazione del fatto che è solamente una scelta politica e purtroppo in questo momento siamo veramente messi male. La scelta infatti di dove andare a far confluire i soldi dello Stato purtroppo è troppo spesso nei posti sbagliati, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sappiamo che il nostro è uno Stato che sperpera soldi soprattutto per i costi stessi della politica e della gestione, e che il nostro è lo Stato, penso, più dispendioso della Comunità Europea. Addirittura qualche giorno fa ho visto un articolo in cui si parlava che il governo del Lazio, della regione Lazio, costa quanto il governo centrale tedesco. Quindi questa è una dimostrazione di quanto ci siano sprechi dalle nostre parti, piuttosto che investimenti e oculatezza nella gestione delle risorse. Una situazione assolutamente triste e penosa per noi giovani, soprattutto per gli artisti anche, no? È così? Sì, anche perché consideriamo che in Italia purtroppo gli artisti, o comunque in generale chi fa cultura e spettacolo, praticamente tendenzialmente non viene neanche riconosciuto dallo Stato italiano. Noi con il movimento Tutti a Casa, con cui abbiamo occupato il red carpet del Festival di Roma per esempio, e poi in altre situazioni di mobilitazione anche a fianco di altri movimenti o associazioni, abbiamo più volte gridato il fatto che in Italia non esiste una legge sull'ambiente dello spettacolo, né sullo spettacolo dal vivo né su quello che è il cine audiovisivo, cioè non esiste nessuna legge di regolamentazione, nessuna legge di sistema che invece si richiede appunto a gran voce da molti anni, penso da 30 anni ormai, e che nessun governo fino ad oggi ha mai pensato di fare. Questo decreta che noi siamo dei lavoratori, noi siamo intermittenti, nel senso che siamo dei professionisti che con intermittenza lavorano, non siamo, certo, dei veri e propri precari, però di fatto alla fine siamo dei precari e neanche riconosciuti, perché il nostro lavoro non viene riconosciuto come una professione. Ognuno di noi lavora, chiunque lavori nel settore culturale o artistico, è un lavoratore che a tutti gli effetti fa magari anche della formazione personale, della ricerca personale, e tutto questo non viene riconosciuto, non viene riconosciuto come professione. È per questo che spesso veniamo additati come dei fannulloni o cose di questo tipo, che poi di fatto non è, perché chiunque lavori in questo settore e in settori limitrofi sa bene quanto impegno ci voglia e quanti anni di gavetta ci vogliono per essere dei professionisti. Certo. Senti, per quanto riguarda, ovviamente pare un po' paradossale chiedere, parlare, poter anche solo parlare di un futuro, però se aveste qualcosa da dirci o anche una previsione da fare secondo voi per il futuro della cultura, o anche solo del vostro comitato e di Comitato 3 del coordinamento, cosa pensi che accadrà? Quali saranno le prossime mosse? Senti, le prossime mosse sono reali, quelle diciamo un po' più evidenti sono da concordare ovviamente con tutto il resto del movimento. Di fatto quello che sta avvenendo oggi in questi giorni con il decreto mille proroghe che ha sancito praticamente l'aumento dei prezzi dei biglietti dei cinema €9, una cosa scandalosa, noi riteniamo scandalosa, era già stata paventata questa cosa a dicembre appunto nella finanziaria, e questo per far sì che loro, diciamo, questo è un tentativo di dire che lo Stato dà soldi a questo settore. Di fatto, appunto, noi abbiamo già dimostrato che con un investimento dello 0,21 del PIL, che è niente perché consideriamo la media europea è all'1%, compresi i paesi esordienti come possono essere la Romania, certo. Quindi la media europea è dell'1%, noi siamo a un terzo della media europea, eppure noi disponiamo dei beni culturali, penso che siamo a livelli massimi a livello mondiale, perché ovviamente una grossa percentuale del patrimonio culturale mondiale sta in Italia. Noi invece investiamo solo lo 0,21 nel settore della cultura, dello spettacolo, e questo riporta per il settore cinema riporta i finanziamenti triplicati, cioè se lo Stato investe un euro ne ritorna un tre sotto varie forme, siano di tasse, IVA e compagnia bella, per cui è solo ed esclusivamente un guadagno per lo Stato, un investimento, non è una spesa come sono appunto spese altre, sono quelle militari o quelle politiche, proprio della politica stessa. E con il decreto mille proroghe hanno inserito questo euro in più sul costo del biglietto, che è una vera vessazione per chi usufruisce dello spettacolo, del cinema, e quindi va ovviamente a colpire le persone magari meno ricche, certo. Con meno possibilità, quelli che magari ogni tanto si vogliono concedere di andare al cinema, e questo aumento è una cosa che non ha alcun senso. Oltretutto viene fatto con la scusa di rendere soldi al FUS, cioè al Fondo Unico per lo Spettacolo. Realmente questi soldi, è stato decretato, che vanno nella fiscalità generale, quindi vanno direttamente allo Stato. Poi lo Stato rideciderà se renderne una parte al cinema, allo spettacolo dal vivo, al teatro, alla musica, all'opera lirica e quant'altro. Per cui non è assolutamente non è assolutamente niente di vicino a quello che noi avevamo chiesto, che era una tassa di scopo, cioè tassare, come avviene in Francia, avviene in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, in tutte le parti del mondo civilizzato, cioè di fare una tassa per cui una piccola tassazione, una piccolissima percentuale di coloro che sfruttano le opere dell'ingegno per trarne guadagno, che possono essere dalle solerie dei cellulari alle televisioni, a internet, chiunque sfrutti opere cinematografiche, cineaudiovisive in generale o parti di esse, dovrebbe pagare un qualcosa, cosa che attualmente appunto in Italia, unico paese al mondo dei paesi civili, non avviene. E questa tassa di scopo doveva servire a finanziare un fondo separato dalle casse statali per poi rifinanziare appunto le nuove opere, le opere dei giovani produttori e dei giovani registi, degli esordienti, insomma. L'intento era un po' quello, puntare molto sull'innovazione, sulla creatività, sull'innovazione delle sale cinematografiche, sulla creatività, sulla sperimentazione, sulla ricerca e soprattutto appunto sui giovani. Queste voci nostre non sono state ascoltate, appunto, è stata fatta un'altra porcata, come già era stata fatta con la legge elettorale, così stesso era stata definita dallo stesso creatore, e questa è un'altra porcata che non serve a niente e che semplicemente farà sì che il cinema italiano, che ha vissuto una stagione eccezionale quest'anno, perché veramente il cinema italiano è arrivato con i film italiani, è arrivato al 32% nelle sale, cioè di 32% degli spettatori hanno guardato film italiani, e questa è una cifra altissima, perché questo vuol dire che sono usciti dei film di qualità, perché non sono tutti i cinepanettoni quelli che produce l'Italia, non sono tutti film di nicchia, sono film anche belli che guarda caso vengono premiati all'estero, vanno agli Oscar e cose del genere. E quindi diciamo è stata una stagione eccezionale per il cinema italiano, questa stagione eccezionale sarà solamente una mosca bianca nel panorama di queste annate, perché il prossimo anno sicuramente l'accesso al cinema sarà limitato, quindi sarà in crollo sicuramente anche Ok Francesco, allora noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qua, purtroppo abbiamo potuto avere solamente una breve conversazione, anche se ci sarebbe molto ancora di cui parlare. Esatto, ci sarebbe tutta la vita di cui parlare, comunque ti ringraziamo veramente tanto Francesco e buon lavoro con il vostro Comitato 3. Grazie a voi per lo spazio, grazie. Ciao. E adesso ci sentiamo dei Croghi Gnocchi. We'll be right back. questa interessantissima corrispondenza con... Siamo su Radio Onda Rossa 87.9. Qualche problemino tecnico qui in regia, ma possiamo andare avanti. Quindi come abbiamo parlato fino adesso con Francesco del Comitato 3, sicuramente ha dato molti spunti interessanti di riflessione. In primo fra tutti probabilmente è proprio l'idea, la volontà del nostro paese di non investire in cultura, di non investire in cultura e quindi di non di tagliare i fondi per non permettere un florido sviluppo dello spettacolo, del cinema, ma anche di tutto del sfruttamento di tutto il patrimonio artistico nostro. Questa stessa idea politica che i nostri governanti hanno e che stanno attuando ormai da tempo la riscontriamo anche dentro la scuola, nella formazione, nell'educazione italiana, sia nelle scuole che poi nelle università, quindi un taglio alla cultura che corrisponde anche poi a un taglio nelle scuole. Certo, e la cosa anche direi molto triste è vedere come anche noi giovani, nonostante i nostri sforzi e la nostra evidente rabbia nei confronti di ciò che sta accadendo, come nonostante noi continuiamo a non essere specchio della nostra classe dirigente e soprattutto del rapporto che la classe dirigente ha con la cultura e con l'arte, nonostante appunto noi continuiamo ad essere diversi, continuiamo ad essere altro rispetto a loro, continua questo paesaggio quasi paradossale in cui appunto l'intera popolazione piange e urla contro una poca manciata di potenti che non ha intenzione di ascoltarci. E poi un altro dato, a parte proprio il silenzio, la sordità assordante proprio della classe dirigente, è come lo Stato non cerchi di fermare il flusso di precari, l'aumento della precarietà giovanile e non, e quindi nella scuola abbiamo tagliafondi che poi ricadono in tagli al personale e quindi in meno assunti e quindi in professori che sempre più tardi vengono assunti e quindi sempre di più sono precari, sempre più vanno in giro a fare supplenze, a sostituire uno o l'altro professore. E quindi anche poi nello spettacolo, come dicevamo prima con Francesco, un po' la stessa situazione: se vengono tagliati i fondi, anche difficoltà nelle assunzioni, in avere un lavoro con un contratto indeterminato e quindi avere una certezza che poi il lavoro all'interno di un teatro, all'interno di un cinema, e vedersi poi tagliati i fondi, tagliati lo stipendio. Quindi è proprio uno Stato che non tenta di arginare questa deriva di precarizzazione del lavoro, ma cerca solo di accentuarla. Sì, poi sicuramente tornando alla precarietà nella scuola, la precarizzazione dei professori crea una discontinuità nell'insegnamento delle varie materie, perciò un professore che magari un anno fa lezione e poi non viene riassunto diciamo crea dei problemi all'interno dell'insegnamento delle scuole, perciò gli studenti hanno più difficoltà a seguire un corso di studi che è coerente e perciò ha una certa sua cronologia, no? Certo, vi è una discontinuità didattica, questo vuol dire. Certo, sì. Certo, è così, anche solo pensando magari a quello che ha detto prima Francesco, le certezze che nessuno di noi ormai ha, a noi ragazzi che magari diamo un'occhiata al mondo del lavoro, iniziamo appunto ad affacciarci al mondo degli adulti, vediamo proprio la perdita e la caduta di tutte le certezze che tendenzialmente una persona che studia o comunque una persona che ritiene di avere dei meriti dovrebbe poter avere, certezze che non ci vengono riconosciute e soprattutto meritocrazia inesistente. E poi proprio la mancanza di futuro, quindi, che ci prospetta, cioè ci svegliamo pensando anche all'università, pensando a quello che vorremmo fare, non sappiamo se poi vorremmo andare a studiare, non sappiamo cosa, non possiamo neanche tracciare un nostro futuro perché non ne abbiamo le basi, sappiamo solo che sarà un futuro precario, questa è l'unica nostra certezza. E su questo tema, che in autunno siamo scesi in piazza più e più volte, studenti, universitari, precari della scuola e dell'università, proprio per opporci a questa idea di Stato e a questa concezione. Per questo anche nell'autunno ci sono state varie iniziative dei collettivi, insieme anche a un collettivo di Generazione P, che sono ragazzi precari che agiscono sul territorio. Si è entrati per denunciare il costo della cultura e quindi in via indiretta anche i tagli alla cultura, al Teatro Maxxi, si è andati a fare un'azione al Museo Maxxi, si è poi provati a entrare anche al Teatro India e anche al Macro. Sì, poi c'è stata anche un'azione al Teatro dell'Opera in quest'autunno. Dove noi abbiamo cercato di fare appunto delle autoriduzioni, dove si presentava una sorta di volantino, certo, piccolo volantino con scritto appunto un prezzo popolare o un prezzo precario, che era appunto il prezzo zero, e quindi cercare di entrare gratuitamente, come dovrebbe essere possibile in uno stato civile per i giovani che studiano. E poi anche ricordiamo la contestazione alla Scala di Milano dei collettivi studenteschi e dei comitati per la cultura. Adesso un altro stacco musicale, ci ascoltiamo un po' di buona musica. E allora rieccoci in studio prima di farci una chiacchierata con Tiviane, che ci sta deliziando con la sua musica dall'inizio di quest'ora. Abbiamo in collegamento con noi Niccolò. Ciao Nick. Ciao. E è partecipato a in questo weekend, c'è stato a Brescia un incontro nazionale dei collettivi autoorganizzati e si sono trattati vari argomenti, si è parlato di scuola, dei giovani e degli studenti. Dici un po' le tue impressioni e quello di cui si è trattato in queste due giornate assembleari su a Brescia. Beh sì, certo, come hai detto tu poco fa, appunto c'è stato un incontro nazionale con partecipanti di una serie di città, sia del nord che del resto d'Italia, ma erano particolari le città, si sono mobilitate particolarmente durante l'autunno, hanno occupato diverse scuole, hanno fatto molti cortei, hanno partecipato alle giornate anche nazionali, molti studenti erano appunto presenti a Roma nel corteo del 14 dicembre e hanno proseguito i loro percorsi di lotta fino poi al 28 gennaio e al periodo che adesso stiamo vivendo. E, sì, si è parlato, come dicevi tu, di scuola, ma in generale di giovani e di come viviamo la nostra vita da studenti e, all'interno degli istituti e delle città. E, abbiamo cercato un po' di focalizzare i problemi che sentiamo tutti sulla nostra pelle, e non solo della riforma, ma quelli legati agli spazi, legati a 5 condotte assenze e legati alla mancanza di luoghi di aggregazione nelle nostre città e nei nostri quartieri. E quindi un po' dall'esperienza delle varie città abbiamo cercato di trarre delle sintesi che peraltro sono rivelate molto comuni per tutti i collettivi che hanno partecipato, e quindi cercare di delineare un po' una prospettiva adesso nell'anno a venire e in quello che poi proseguirà il movimento. Quindi anche un momento positivo sicuramente di incontro, che ha potuto poi anche constatare che forse le dinamiche che tu trovi dentro le tue scuole, io nella mia e tutti gli studenti delle proprie scuole, e poi che troviamo nella nostra città, sono le stesse dinamiche che poi succedono, che ci sono nelle altre città, che possono essere Brescia, Milano, Palermo, no? Quindi un po' sì, certo. Qual è la sintesi finale, anche come si pensa dei ragionamenti se si sono stati fatti sul come andare avanti all'interno delle scuole, come riuscire a portare avanti determinate vertenze e contenuti? Ma guarda, allora, come dicevo prima, i problemi, quelli su cui si è dibattuto di più, sono stati appunto gli spazi all'interno delle scuole e in generale la vita dello studente, quello che subisce sia a livello repressivo, diciamo, interno e sia poi della riforma. E, quindi di cercare di proseguire i nostri percorsi su questi temi a livello di tutte le scuole italiane, insomma delle città presenti, che poi si possa allargare anche questo, e di cercare di monitorare il tutto tramite un network che è nato appunto con questa esperienza e adesso dovrebbe attivarsi. Intanto vi anticipo, ci sarà appunto un sito che è www.studout.it, dove dovrebbero essere registrate le varie esperienze, i vari percorsi di lotta delle città che hanno partecipato e delle città che volessero partecipare. E, sicuramente la dinamica della lotta dal basso, e come abbiamo sempre detto anche a Roma nei nostri cortei, è quella che interessava i temi dibattuti in assemblea, e quindi più o meno questa sarà la sintesi. Ovviamente poi ci sarà la sintesi scritta sul sito e sarà modo di confrontarsi anche in futuro. Ok, grazie mille. Alla prossima. Ricordiamo il sito Studout, che sarà sempre più aggiornato e sarà anche un modo di collegamento con le esperienze delle altre città. Grazie, ci vediamo, ciao a tutti. E adesso ascoltiamo una canzone sempre di Tiviane e poi lo introdurremo e faremo una piccola chiacchierata con lui. Thank you. insomma, ci piace la musica di Tiviane. Senti, scopriamo finalmente questo personaggio misterioso che è rimasto con noi dall'inizio senza mai dire chi era, per vedere, insomma, sei un essere umano, parla, sei un essere umano, quindi non sei una macchina, meno male. E dici un attimo chi sei, cosa fai? Allora, sono Tiviane. Ciao Tiviane. In arte sono Giovanni Mignello e vivo fra Piazza Mancini e Catena a Roma, quindi non so, ho 20 anni, faccio musica, musica elettronica, e studio filosofia e metto dischi nei locali, così. Fantastico. Senti, dici un attimo come è nato il tuo iter musicale. Non lo so, a 13 anni ho iniziato a fare drum and bass. Ah, fantastico. Col computer. Poi ho iniziato a fare post-punk con un gruppo e adesso sono ritornato all'elettronica e faccio un genere, non lo so, forse techno, non ne ho idea. Un po' inusuale il modo sì. di iniziare a fare musica, insomma, a 13 anni uno si immagina il bambino che alle medie suona il flauto dolce con l'orchestrina della scuola, invece... Insomma, un notevole genere, naturalmente la drum and bass, ma sicuramente, insomma, nella normalità, se esiste la normalità, ci si arriva molto più in là. Insomma, ti faccio i complimenti per esserci arrivato grazie. Così presto. le influenze, chi ascolti, chi ti piace, come mai questo sì. tipo di musica? Primo fra tutti Aphex Twin, Richard D. James in tutta la sua produzione, anche con altri nomi. Poi per questo genere comunque la scena di Berlino, tutta la techno di Berlino, quindi Paul Kalkbrenner, Ellen Alien. Poi non so. Oddio, è una bella domanda, è difficile. Ascolto tantissima roba comunque, faccio il DJ, quindi le influenze ce ne sono tantissime. E adesso sentiamo un altro pezzo. Dici, presentalo te, la traccia numero 2. Beh sì, questa canzone non ha un vero e proprio titolo, si chiama 4x2. È più fatta di sonorità che di altro, che di ritmo oppure di melodia. È un'immersione in un accordo semplice, così. Senti Tiviane, ma te come vivi questa precarietà di cui abbiamo parlato, insomma, questa precarietà del mondo dell'arte in generale, te, proprio che te ne occupi in prima persona, ci interessava proprio sapere il tuo punto di vista, insomma, vedere cosa ne pensi te, come la vivi te in prima persona sulla tua pelle. È una bella domanda, perché io come ho già detto metto dischi, quindi cerco di sopravvivere economicamente così. Poi faccio musica a casa, ho allestito un piccolo studio comunque, e questo per me è un po' un modo di vivere questa precarietà in maniera ambigua, perché da un lato mi sento povero economicamente, dall'altro però no, mi sento abbastanza ricco, cioè la mia ricchezza sono le canzoni che faccio io, le musiche che riesco anche ad avere. Perché comunque questo... hai la fortuna di poter appunto avere uno spazio tuo anche, sì, che ti sei potuto gestire in casa tua, in cui appunto coltivare questa passione, quindi anche molto fortunato, perché spesso non succede, insomma, a gruppi o a ragazzi emergenti in questo mondo, quindi ti ritieni, sì, anche fortunato da questo, sì, punto, sì, di vista. Sì, infatti sono molto molto fortunato, sono un privilegiato sotto questo aspetto. Mi piacerebbe anche poi guadagnare a livello economico, però alla, certo, fine c'è anche da fare una distinzione fra la precarietà che vivo io e quella che ha sempre vissuto un artista, perché alla fine l'artista è precario, non ha nessun contratto di lavoro, mentre per me è più difficile far girare un pezzo su MTV, perché, certo, siamo in tanti e insomma poi non faccio musica con tutta questa gran qualità, quindi è difficile. Sei modesto. Ma sicuramente su MTV, insomma, adesso l'hai nominato te, oggigiorno non è neanche la musica di qualità che è ricercata, ma è la musica commerciale, quella, sì, che fa fare più soldi e quella che gli adolescenti comprano di più. E questo è un gran peccato, perché insomma io ti rifaccio i complimenti e sono sicuro che come te ce ne sono tanti altri di giovani che fanno musica ma non sanno in qualche modo come spiccare, perché non è detto che uno debba far musica per far soldi, ma può essere comunque, cioè è comunque piacevole far soldi con la propria musica, perché vuol dire che si è raggiunto insomma il proprio obiettivo, no? Sì, è un risultato vero e proprio. Sì, e appunto tutti questi vari canali, non solo televisivi ma anche di palchi, di eventi che vanno a ricercare la speculazione anche nella musica come nell'arte in generale, ormai diciamo occupano i primi posti del mondo della musica, lasciando poco spazio agli giovani. Sì, sì, chiaro. E tenderei anche a sottolineare la frase che ha detto Tiviani, che è molto bella, quella appunto che alla fine lui si sente povero economicamente ma comunque rimane ricco, perché la possibilità di fare arte significa anche la possibilità di diventare molto più ricchi di tanti altri magari veri ricchi. Certo. Sentiamone un'altra, un'ultima. Cioè, un'altra? Sì. Va benissimo. ancora grazie a Tiviane che ci ha fatto compagnia questo pomeriggio in radio, e ancora tanti complimenti. Non so se ci vuoi dire prossimamente se suonerai in qualche locale o metterai dischi, dove ti possiamo trovare, insomma. Beh, allora, al Batucata il 26 febbraio. Benissimo, va bene. E allora grazie ancora. Grazie a voi. Ringraziamo, e visto che siamo in chiusura, ricordiamo questo sabato alle 2 ci sarà un sit-in antifascista a Ponte Milvio, dopo le ripetute aggressioni che si sono verificate in quella zona, lanciato da varie associazioni e collettivi che si mobilitano proprio nelle zone di Prati, Roma Nord e Ponte Milvio. E quindi vi lasciamo anche oggi, quest'ora è finita. Sì, perciò insomma, come al solito ci dispiace lasciarvi. È finita quest'ora di trasmissione dedicata a noi studenti medi. Martedì prossimo vi faremo di nuovo compagnia dalle 4 alle 5. Vi ricordiamo che il 22 febbraio è un giorno speciale perché è l'anniversario della morte di Valerio Verbano. Come al solito ci sarà il corteo che di commemorazione, e noi saremo qui in radio e tratteremo il fenomeno dell'antifascismo nelle scuole, e insomma come viviamo noi al giorno d'oggi ancora gli attacchi, sia insomma psicologici che in alcuni casi fisici, che subiamo dai fascisti. E per quanto riguarda sempre Tiviane, se volete sentirlo e vederlo dal vivo, sabato prossimo alle 7 ci vediamo tutti quanti all'ex 51 per un aperitivo sociale, diciamo. Venite numerosi e vi lasciamo con un'altra traccia sempre di Tiviane, e lo ringraziamo. Siete su Region Air, ci vediamo la prossima settimana, ragazzi. Radio Onda Rossa 87.9. Adesso lasciamo lo spazio al pomeriggio autogestito di Femministe e Lesbiche.